piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. L'ultimo decreto presidenziale del Consiglio dei Ministri ha stabilito che i teatri possono riaprire il 15 giugno con severe restrizioni. Non sto ad elencarle tutte 13, dico soltanto 200 spettatori al chiuso, 1000 all'aperto, sanificazione e aerazione degli ambienti al chiuso, addirittura c'è il divieto di pagare in contanti biglietti, mascherine per gli attori e gli spettatori. A questa riapertura del 15 giugno c'è qualcuno, come Gaia Calimani, che è profondamente contrario. Il 15 giugno i teatri non possono riaprire, ovviamente. Un conto se si parla di spettacolo dal vivo all'aperto in determinate situazioni, e già lì la vedo difficile. I teatri non possono aprire, è un po' una butade, per non essere più volgare, diciamo, questo è. Non si può per un problema logistico, ma soprattutto per un problema organizzativo e finanziario. Quante volte abbiamo parlato durante il lockdown del problema degli operatori dello spettacolo? Lenimento e conforto dell'animo indispensabile, come quasi il conforto e l'alimento concreto. Abbiamo immaginato, pensato, architettato alternative rispetto alle metodologie tradizionali per fornire spettacoli teatrali, musicali, rappresentazioni. E poi finalmente sono arrivate le nuove linee guida della conferenza delle regioni e delle province autonome, che danno le regole per cominciare dal 15 giugno, quindi dalla prossima settimana, ad andare a teatro, ad assistere a concerti, a fare rappresentazioni teatrali, a riaprire i cinema. Ma come avete sentito dal canale YouTube di Andrea Simone, Gaia Calimani, che è presidente di Manifatture Teatrali Milanesi, dice: guardate che è impossibile. Sono gli operatori dello spettacolo che hanno troppe esigenze? Sono veramente inattuabili le regole di sicurezza? Beh, vediamo soltanto un piccolo assaggio di quelle che sono, ad esempio, le linee guida per la riapertura delle produzioni liriche, sinfoniche, orchestrali e spettacoli musicali, tratto appunto dal documento redatto della Conferenza Italiana delle Regioni Italiane del 9 giugno. Linee guida per la riapertura delle produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali. L'entrata e l'uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l'esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali e in maniera ordinata mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall'accesso. In fase di uscita dal palco si procederà con l'ordine inverso. I professori d'orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri. Per il direttore d'orchestra, la distanza minima con la prima fila dell'orchestra dovrà essere 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante. I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno un metro e almeno due metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Si dovrà evitare l'uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l'arrivo in teatro degli orchestrali già in abito da esecuzione. Piccola comunicazione di servizio a chi di dovere: state mandando in onda Roma, ecco, adesso sono andato in onda io, ma lo dico semplicemente perché ci metto un'ora a prepararmi tutte le modalità, perché da casa possono anche seguire la trasmissione in video. Poi vedevo l'aula sorda grigia dello studio desolato di Roma pieno di ragnatele, quindi avevo un attimo di smarrimento. Avete sentito? sembra che sia piuttosto complicato, complicato per il pubblico, complicato per gli operatori, complicato per le persone che devono operare. Entriamo nello specifico. Abbiamo aspettato con grande apprensione, ansia e desiderio tutti questo momento, però in questo momento ci rendiamo conto che è molto difficile. Ricordate, noi vi facemmo sentire qualche settimana fa una coppia di artisti che si stava organizzando, aveva organizzato On Theater, una piattaforma digitale di streaming on demand per mandare in onda spettacoli teatrali a pagamento. ontheater.tv era il sito, e si erano organizzati un direttore di orchestra e una cantante lirica per fare questo servizio. Ma da lunedì potrebbe cominciare ad essere accettabile il fatto che si comincino a fare spettacoli dal vivo. L'uomo della coppia di cui abbiamo parlato è un direttore d'orchestra e maestro di coro, è Massimo Fiocchi Malaspina. Buongiorno, maestro. Buongiorno Gianluca, molto piacere. Maestro si dice quando uno mai è vecchio rincoglionito, scusa. Buongiorno, non so come, direttore. Va bene Massimo, va benissimo. A me mi cominciano a dire maestro e non capisco manco perché, maestro di che, non ho mai insegnato nelle scuole elementari. Allora, ecco, hai dato un'occhiata a queste norme che noi adesso continueremo a far leggere. E qual è la tua prima impressione? Tutti diamo per scontato che c'è una necessità comunque di cautela, di attenzione, di sicurezza, ma è plausibile dirigere un'orchestra con gli orchestrali distanziati, con il secchio per lo sputacchio degli ottoni e tutto quello che è stato giustamente elencato come indispensabile? Allora, in una situazione di necessità è plausibile fare una cosa di questo genere, è plausibile avere i musicisti distanziati, è plausibile avere i musicisti separati da dei plexiglass, è chiaro, non è assolutamente la situazione acustica ideale, non è la situazione ideale per fare musica insieme, per potersi ascoltare, per poter condividere un'intenzione musicale, però ripeto, in una situazione di necessità questo si può fare. Si può fare, diciamo, se l'orchestra suona per un concerto sinfonico e ha a disposizione molto spazio. Non si può fare, o meglio, lo vedo veramente complicato nel momento in cui un'orchestra si trova in buca a suonare per un'opera lirica. Spesso le buche non sono così grandi e spesso sono veramente... La buca poi è quella, come fai a distanziare la gente dentro una buca? Ce ne metti meno o se no non puoi scavare una buca più grande? Certo. Esattamente, e mettercene meno vuol dire rivedere tutti gli equilibri. Tu fai conto che mediamente un'opera si fa con 50 elementi e 50 elementi, diciamo, non la riempiono completamente la buca, però ce ne stanno al massimo 70, ecco. Quindi per averli distanziati significa averne 30 al massimo, 25, 30. Allora intanto fermo un attimo, io dico al nostro pubblico di chiamare all'800240024, so che ci sono molti artisti, impresari, persone che lavorano nel mondo dello spettacolo e anche appassionati comunque di opera, di teatro, di musica, di arte, e questo è il momento per confrontarci su questa difficoltà. Mi sembra di capire che Massimo Fiocchi Malaspina ci dice, certo non è la condizione ottimale, però pur di rimanere a casa ci adatteremo in qualche maniera, questa è l'idea. Però quali sono le difficoltà più grosse che vedi, a parte questa discriminazione oggettiva fra chi ha molto spazio e molti mezzi, che è una classica discrimine in altre attività anche umane, e rispetto a chi ha spazi più angusti? Ma poi bisognerebbe rivedere tutto, diciamo, tutte le partiture, tutte i copioni, tutte le scritture per poter rappresentare comunque delle opere. Allora, senti, io ho la possibilità quest'anno di riprendere, perché io faccio l'altro maestro del coro a un festival estivo all'aperto, che è il festival allo Sferisero di Macerata, che con grande coraggio ci sarà in forma ridotta, ma dato che sarà il palco di Macerata è un palco enorme, il palco dello Sferisterio, quindi c'è possibilità di adattarsi a queste regole. La buca non è enorme, però si ridurrà probabilmente l'orchestra, però la direttrice artistica, che è Barbara Minghetti, dice che lei con grande coraggio osa e quindi il festival ci sarà. Quindi la notizia che mi dà è che comunque vi state organizzando, non è che aspettate, siete sul pezzo, avete visto a tempo reale quelle sono le disposizioni, immediatamente Siete stati alzati la notte, sì, per capire con il metro in mano come potete organizzarvi. Sì, soprattutto molti direttori artistici stanno organizzando. Certo, chi ha la possibilità di avere a che fare con un festival estivo all'aperto è facilitato chiaramente, intanto perché il pubblico possibile, insomma, hanno confermato le linee guida, è di 1000 persone e non solo di 200 persone, cosa che invece prevede per gli spettacoli al chiuso. E questo vuol dire tanto, cioè avere la possibilità di avere comunque meno, ma comunque 1000 persone paganti per uno spettacolo è un discorso più sostenibile. E poi, ma quindi si potranno anche riaprire le piazze, grandi concerti di piazza, purché la gente ci siano piazze per contenere 1000 persone distanziate di un metro e mezzo l'una. Credo che il problema sia proprio garantire il distanziamento. In teatro il distanziamento è garantito dal fatto che ci sono dei posti fisici, vengono venduti dei biglietti e quindi uno occupa quel posto e quindi si riesce a controllare il distanziamento. Nelle piazze non so come sia possibile, probabilmente mettendo dei segnaposti per terra oppure mettendo delle sedie stabili, non lo so, non so immaginarmi. Certo, però da quello che ho visto anche le manifestazioni per i più nobili intenti civili di piazza alla fine erano delle grandi gazzarre dal punto di vista del distanziamento. È molto difficile mettere le persone distanziate quando poi si vive all'unisono un evento, sia un evento, certo, di partecipazione politica, che di testimonianza, che di fruizione di uno spettacolo. È molto difficile. Certo. Il problema poi resta anche su questo, parlavamo degli spettatori e anche della buca, ma il palcoscenico è un altro problema. Cioè sul palcoscenico bisogna, nelle interazioni necessarie nel teatro musicale e non, bisogna rispettare le distanze. Adesso io leggevo sulle linee guida che la mascherina va tenuta, dicono, all'ingresso del palcoscenico, poi va tolta per il momento dell'esecuzione e poi la si deve rimettere quando si esce dal palcoscenico. Cioè, fammi capire, Amleto entra in scena con il teschio, col palcoscenico, con la mascherina, poi se la toglie, fa il monologo, poi se la rimette, esce, una cosa del genere. Cioè, così dicono le linee guida, questo è scritto sulle linee guida. Adesso non so, nel momento in cui oltrepassa la quinta può togliersela o meno, non lo so, fino a finché sarà posizionato fisso, non lo so, questo non è chiarito, però così dicono le linee guida. E lo stesso per i cantanti lirici. Poi un altro problema grande sarà la disposizione del coro. Il coro in un'opera spesso è ammassato, insomma rappresenta la folla. Qui la folla dovrà essere rappresentata da persone distanziate da un metro e mezzo di distanza. Però aspetta, lì ve lo dico io, ci mettete dei manichini grandezza naturale, cioè fra un cantante e l'altro ci stanno due manichini con la bocca aperta che non sta lì, è una possibilità, bambole gonfiabili, qualcosa del genere, e non vedo altra alternativa. Li mettete tutti assieme vestiti uguali e un po' sono Real Doll, un po' sono cantanti e stanno lì, quello si risolve. Adesso non è per battute, certo. Ma che fai, devi organizzarti con una scena molto creativa da questo punto di vista. Se no, certo, un coro a un metro di distanza non si può vedere, è una cosa tristissima. Non si può vedere ed è anche difficile da gestire dal punto di vista acustico. Certo, il coro canta, fa massa sonora se il coro è unito. Quindi, insomma, sono tutti problemi da affrontare, che in qualche modo a Macerata affronteremo, perché faremo Don Giovanni in forma scenica, poi Trovatore in forma di concerto, quindi diciamo è più semplice. Ma Don Giovanni sarà fatto in forma scenica, lì ci sono tutti i vari cantanti protagonisti. Ecco, fammi un esempio, qual sarà il problema tecnico in quel tipo di rappresentazione? Il problema tecnico più difficile da affrontare? Ma sicuramente quando entra il coro sarà un problema, perché ci sarà una massa di persone che si dovranno entrare in modo organizzato, quindi insomma diciamo che in teatro siamo comunque abituati ad organizzare i movimenti, gli spostamenti. Poi metto sempre il manichino su rotelle che entrano tutti assieme e nessuno vede la differenza. Non è una Oppure battuta, no, che non no, è una certo. battuta. Ci puoi pensare veramente, che l'unica maniera è quella per dare il senso di massa, che qualcuno è finto, se no non potrai mai farli entrare tutti assieme. Certo, ma guarda, ci sarà una regia particolare con delle proiezioni, quindi secondo me poi ci sarà un grandissimo regista, e quindi credo che questo limite che ci è imposto sarà comunque un punto di partenza per sviluppare la creatività. Alla fine questo è quello che fanno i limiti. I limiti servono anche per avere uno stimolo in più, e quindi credo che tutti dovremmo cogliere tutti questi limiti, che sono veramente importanti. Ma io penso, guarda, che i libri di storia del teatro, dell'opera, delle rappresentazioni racconteranno questo periodo come un periodo in cui si sono messe a punto alcune modalità particolari per rappresentare lo spettacolo nei tempi e nei limiti appunto dati dalla pandemia. Noi ci fermiamo ancora un istante, ripeto il numero 800240024, chiunque è impegnato comunque sarà impegnato in una prossima stagione teatrale, musicale, di rappresentazione, comunque impegnato in eventi artistici, si sta organizzando in linea con la linea guida emessa proprio ieri dalla conferenza delle regioni e delle province autonome. Questo mi piacerebbe saperlo, mi piacerebbe anche sapere come vi state arrangiando e organizzando per supplire a quelle che sono delle direttive dalle quali non si può scappare. A tra un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Melog. Linee guida per la riapertura delle produzioni teatrali. L'accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale. Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze. L'uso promiscuo dei camerini è da evitare, salvo assicurare un adeguato distanziamento interpersonale unito a un'adeguata pulizia delle superfici. Il personale deve indossare la mascherina quando l'attività non consente il rispetto del distanziamento interpersonale. Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento. Per la vestizione, l'operatore e l'attore, per il periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a un metro, devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree. L'operatore deve indossare anche i guanti. Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti. I costumi di scena dovranno essere individuali. Non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati. Innanzitutto grazie a Valeria Bernardi, a Alessandro Marco Tulli che mi seguono da Milano, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti che mi seguono da Roma. Voi direte: quanta gente, tu stai solo a casa e hai bisogno di essere seguito. Sì, ho molto bisogno di essere seguito, come avrebbero bisogno di essere seguiti gli artisti che da questa mattina si staranno arrovellando sulle linee guida che in qualche maniera stabiliscono come cambierà il loro lavoro. Ricordo che questo è il documento da cui abbiamo tratto queste letture, che è stato redatto dalla Conferenza Italiana delle Regioni Italiane del 9 giugno di ieri, che appunto dà le linee guida in questo caso per le produzioni teatrali. Sentiamo intanto un ascoltatore, Davide da Milano. Ricordate, 800240024, fatemi sapere come vi state organizzando. Davide, sei un artista? Buongiorno Gianluca. E complimenti per la trasmissione. Per noi artisti, questo è il mio mestiere da quasi 30 anni. Ecco, ti stai leggendo le linee guida? Ti stai leggendo le linee guida? Allora, per me è un problema diverso, nel senso che, come per me, ci sono migliaia di persone qua in Lombardia e non solo, in tutta Italia, che, come dire, scrivono delle cose e le propongono ai comuni. Quindi noi non abbiamo sovvenzioni, perché, sai, linee guida, il Teatro X di Milano sta in piedi anche se non fa spettacoli, nel senso che prende 300.000 euro all'anno, mi viene frega poco di fare uno spettacolo in più. Sì, però non puoi nemmeno fargliene una colpa, era tutto precedente al Covid. Poi penso che lo scopo di un teatro è rappresentare, si stanno organizzando per rappresentare. Qui cosa, è un artista indipendente, te immagino, quindi esatto, a questo punto. Esatto, io questo volevo dirti, sì. Artista indipendente, quindi il nostro mestiere è quello di, come dire, fare un prodotto e poi proporlo ai comuni, ai teatri, eccetera. Quindi se non mi danno la scrittura, io che mi organizzo a fare, se non ho già la base, che è una scrittura, poi mi organizzerò, questo vuol dire? Sì, no, non solo, io come dire, io ho una serie di spettacoli che sono a disposizione, che io sto adesso proponendo, insomma, stiamo quest'estate, riusciremo comunque a fare una piccola tournée, una ventina di repliche rispetto al più del doppio spettacoli del solito. Spettacoli teatrali? Sono delle messe in scena teatrali? Sì, sono dei racconti teatrali, quasi sempre dei monologhi oppure dei racconti. Quindi per te valgono queste linee guida che abbiamo appena letto adesso. Ecco, in quello che hai sentito, cos'è che ti renderà il lavoro un po' più difficile e come ti organizzerai? Ecco, quello che rende più difficile proprio a noi indipendenti, questo mi interessava dirti, è proprio la vendita del lavoro, perché se l'evento costa 10, in realtà al comune adesso costa 20, 30, e quindi il comune fa molto più fatica a comprartelo, mi capisci, no? E quindi, come sempre, è la legge del Menga, siete voi che dovete tagliare lo spettacolo e fare uno spettacolo che costi meno, perché il comune non spenderà di più di quello che spende nel suo budget. Sembra magari prenderà 0,10% in più, ma insomma poca roba, insomma molti comuni non faranno cioè immagino 20. Che voi diranno i comuni organizzati per fare una cosa che ci costi comunque lo stesso di prima, cioè, ma io devo mettere, che ne so, gli attori distanziati, sanificarmi, mettere le costumiste, esatto, che devono stare a distanza, cioè, metteteci meno gente, così si dice di solito, fate con meno gente, fate più semplice e rientrateci voi, quindi è come una volta... L'estro dell'artista deve adattarsi alla ristrettezza del budget, questo mi fai capire. Secondo me una volta che poi c'è la parola c'è tutto, voglio dire, però quello che dici è vero, cioè nel senso che dobbiamo assolutamente stringere tutti i costi, ma questo vuol dire provare a immaginare di spazi, di alberghi, di ristorante, no? Perché quando andiamo in giro, come tu sai bene, se vai a fare una replica oggi a Bologna e domani a Roma, ci sono delle spese vive evidenti, no? Certo. Quindi il nostro mestiere da indipendente, come dire, subisce semplicemente questo come problema, che chi compra il lavoro deve poter spendere la stessa cosa o poco di più, ok? Certo. E per noi è difficile vendere, volevo raccontare. No, ma io lo immagino, perché sai, il ragionamento che animerà tutto questo era: tanto sei un artista, inventati qualcosa, togli qualche attore, togli qualche scena collettiva, immagina qualcosa di diverso, fai una cosa più astratta. Questo infatti hai ragione, è stimolante, voglio dire, può anche essere interessante. Io ho cambiato modo di fare, cioè sto facendo una regia, ho cambiato tutto il modo di fare questa regia, questo è interessante. Quello che è difficile da far capire è proprio la difficoltà proporre un prodotto in spese maggiori. Il comune ti dà X e non spende di più, non c'è niente da fare. E quindi è molto difficile questo, insomma. Quindi se tu già prendevi prima una cifra tot, adesso devi considerare che prenderai il 40% in meno, ecco, per dire una cifra. Sì, poi vabbè, se devo dire, come dire, a mia personalmente va bene così, viva Dio, la vita è stata generosa, però voglio dire, i fatti veri sono questi qui, e ci sono, ti assicuro, io solo qua a Milano, da dove ti sto chiamando, sono centinaia di colleghi che hanno cambiato lavoro, ma gente di 60 anni. Io ho un amico dalle parti di Bergamo che sta facendo il fruttivendolo a 62 anni. Questo, e cosa faceva? L'attore? Non ti faccio il nome per discrezione. No, non lo dico. Ma ha fatto l'attore, non so, con barba, ha fatto l'attore a ottimi livelli. E lui fa il fruttivendolo al mattino perché deve avere i soldi, perché sua figlia va all'università e lui non gli entra più mille lire. Ma ce ne sarebbero da raccontarti? Cioè già era un settore in cui diciamo che non è che si navigasse nell'oro a certi livelli, diciamo, di non grande visibilità pubblica. Adesso è diventato drammatico. Quindi ancora una volta l'estro dovrebbe portare a immaginare una riscrittura totale dei propri repertori, delle proprie rappresentazioni, che si adatti alle regole del distanziamento. Quindi togliere persone dal palcoscenico, fare in modo che non ci sia il bisogno di rappresentare la massa. Grazie Davide, continuate a chiamare 800 24 00 24. Intanto sento Lucrezia Drei. Buongiorno Lucrezia. Buongiorno Gianluca. Allora Lucrezia, ricordate, è la compagna di Massimo Fiocchi Malaspina, è una cantante lirica, insieme a lui ha realizzato questa piattaforma On Theater. Che fede ha fatto la piattaforma? Funziona ancora? Ha funzionato? Ha avuto seguito? O adesso che sono uscite le linee guida tutti andranno nuovamente a teatro e quindi non serve più? La piattaforma ha avuto un seguito veramente sorprendente, noi siamo contentissimi, stiamo lavorando ininterrottamente, perché siamo stati contattati da tantissime compagnie, perché proprio come dici tu, e anche grazie veramente all'attore che ha appena telefonato, perché il teatro non è soltanto i grandi festival che magari hanno nomi più conosciuti, che hanno spazi, che hanno possibilità, e comunque anche questi grandi festival sono in enorme difficoltà, perché mantenere una grande struttura costa ovviamente più soldi. Però c'è tutto un panorama di piccole compagnie, di attori indipendenti, di cantanti lirici che magari non erano a un livello di carriera che gli permette adesso di essere chiamati, certo, perché sono quelli, insomma, front name, come si dice. Quindi ci sono tutte delle realtà che rischiano di perdersi, di scomparire, perché primo non hanno le risorse per finanziare la sanificazione, la messa in regola, e soprattutto dovrebbero prendersi anche una grossa responsabilità ad ammettere il pubblico, seppur con i distanziamenti, se qualcosa non dovesse essere fatto secondo queste normative, che sono peraltro molto stringenti e dettagliate, e io non oso immaginare, insomma, se succede qualcosa, un contagio, che tipo di responsabilità ci possano essere. Quindi capisco che in molti non riaprano. quelli che riaprono sono in questo momento, almeno il 15 di giugno, sono i pochi che hanno in primo luogo lo spazio e poi le strutture per poter gestire questa quantità. Senti, mi dici te proprio dal punto di vista professionale, una persona ignorante che conosce poco, diciamo, i tempi, le modalità, gli spazi del vostro mestiere, quello che hai sentito riguardo alle rappresentazioni, gli spazi nel camerino, i rapporti col costumista, con il truccatore, via dicendo, sì, condiziona molto il vostro lavoro, o diciamo sono cose su cui si può lavorare in maniera più facile rispetto alla rappresentazione vera e propria? No, condiziona moltissimo il nostro lavoro. Quello che si vede del nostro lavoro, un'ora, due ore, tre ore di rappresentazione, ha dietro mesi di lavoro di decine e decine di persone, a volte anche centinaia, lavoro di preparazione in cui si lavora proprio gomito a gomito per preparare, ma da una scenografia a cucire i costumi, a volte ci sono produzioni storiche per cui con costumi che sono anche piuttosto datati, che vengono aggiustati, vengono restaurati da decine di sarte e sarti che lavorano ai costumi, alla scenica, macchinisti, attrezzisti, le luci, qualsiasi oggetto di scena, e questo me lo immagino veramente con difficoltà, mentre i costumi alla fine si mettono in lavatrice e si lavano, però il sanificare gli oggetti di scena o le scenografie, comunque in un teatro dove ci sono tanti oggetti, ci sono persone che girano, spazi anche stretti, perché poi molti teatri di tradizione sono antichissimi, sono teatri dell'Ottocento, teatri che sono, ma sì, stati, diciamo, poi non c'è nulla di più promiscuo quanto il backstage di un teatro in cui tutti gli spazi sono angusti e la gente è ammassata per forza. I camerini è quanto c'è di più promiscuo possa esistere, perché si entra, si esce, ci si spoglia, ci si cambia, è tutto. È un po' difficile lì considerarle delle aree asettiche in cui si sta tutti mascherinati, disinfettati, ma questo dovrà comunque essere, quindi bisognerà organizzarsi. Ci fermiamo ancora un istante. Melog 800240024, stiamo parlando delle difficoltà di messa in scena che oggettivamente ci saranno se si vuole osservare le regole di distanziamento e di sicurezza, come da documento redatto dalla Conferenza Italiana delle Regioni Italiane, documento uscito ieri, documento che comunque va osservato. Sentiamo Alberto da Fermo, buongiorno Alberto. Buongiorno a lei caro. Stavo rileggendo stamattina quel breve saggio di Mario Cipolla, l'economista, quando scrive le quattro leggi fondamentali della stupidità umana. Non è che sarebbe meglio mandarne una copia, lo si può scaricare in PDF ai nostri governanti? Chiedevo. Sì, beh, quando ha detto questa cosa, che cosa aggiunge al nostro dibattito? Mi faccia capire. Stupidità perché? Volevo capirlo, perché rispetto l'idea di tutti. Prego, non ho capito, scusi. Se lei avesse la responsabilità di dare delle regole di sicurezza e sulla sua testa pendesse il rischio, dice, se per colpa tua poi qualcuno si prende un virus, qualcuno muore, qualcuno si ammala, sono fatti tuoi. Lei cosa farebbe? Direbbe no, non voglio essere stupido, baciatevi tutti in bocca e state tutti attaccati, o farebbe delle regole osservando il distanziamento e quello che reputa prudenzialmente importante per la sicurezza delle persone? Scriverei delle regole dopo avermi riletto attentamente le quattro leggi fondamentali della stupidità umana. Ci sono dei premi Nobel che sono nella disciplina. Posso dire una cosa? Ma cosa vuol dire questo? Guardi, io sono per il ragionamento, lei sta dicendo che sono tutti stupidi, che può essere anche oggettivamente dimostrabile, devi dimostrarmelo. Chi ha fatto queste regole? Se ne sarà preso la responsabilità. Comunque si riapriranno teatri. Si riapriranno tenendo conto di alcune regole. Perché queste regole le giudica stupide? Su quale no, diciamo, no, sua competenza? Non mi permetto di giudicare io valuto, e stamattina rileggevo le leggi fondamentali della stupidità umana. Vabbè, senta, continua a rileggersi, ne faccia la sua Bibbia. Le legge talmente tanto che la sua articolazione di pensiero è influenzata da queste regole, mi dispiace. Riprendiamo con Lucrezia Drei, non ho capito esattamente cosa volesse dire questo ascoltatore, io ascolto tutti, ma dire semplicemente stupido è banalmente un atteggiamento che non porta a nessuna riflessione. Invece con Lucrezia Drei vuole rientrare nello specifico. Allora, dato per scontato che le regole ci sono e dire, come dice l'ascoltatore, sono stupide, non risolve nulla, perché nessuno può infrangere queste regole, soprattutto in un posto aperto al pubblico, soprattutto quando ci sono delle responsabilità oggettive da parte di chi gestisce un teatro, gestisce un luogo in cui si fanno delle rappresentazioni, un'istituzione, e anche chi ha la responsabilità di una compagnia comunque teatrale o di un gruppo di artisti. Quale, secondo te, Lucrezia, può essere la maniera per riuscire a far quadrare questa equazione complicata? Riuscire a portare a casa comunque quello che è il proprio quotidiano e giusto compenso per poter rimanere in vita, quindi lasciare l'arte che possa sopravvivere, quindi non uccidere l'arte, non fare che la difficoltà e la pandemia uccidano l'anelito comunque di usufruire di rappresentazioni d'arte, e allo stesso tempo fare in modo che sia un po' spazio per tutti, perché da quello che ho sentito, vagamente mi sembra aver capito che per qualcuno sarà ancora più difficile quello che già per voi è difficile. Allora, c'è una cosa che è imprescindibile ed è il buonsenso, per cui se non arrivano soluzioni dall'alto bisogna che ognuno, come almeno io personalmente e tanti colleghi che conosco siamo abituati a fare, si rimbocchi le maniche, come certi festival, tanti teatri piccoli e grandi stanno facendo, e trovi delle soluzioni, inventi delle soluzioni personali. Se non veniamo aiutati dallo Stato, questo trovo che sia un peccato, ma d'altra parte bisogna comunque trovare anche dentro di sé nella collaborazione. Quando dice aiutati, per farmi capire, Lucrezia, cosa significa compensare la mancanza di diciamo giusto profitto in opere così condizionate, o magari a creare degli spazi più adatti? Però già vedo questo penalizzante per gli spazi classici della rappresentazione. I teatri non si possono organizzare, antichi come hai detto te, o storici che hanno dei camerini che sono dei formicai, non potranno mai mettere in scena un'opera che prevede tantissime persone. Dunque, noi nel nostro piccolo, come appunto vi abbiamo raccontato, abbiamo creato questa possibilità di mandare in streaming gli spettacoli, sia live sia registrati, e adesso vorremmo anche lanciare un'iniziativa, quindi ne approfittiamo, che è proprio un'iniziativa per la ripartenza, quindi chi volesse ripartire il 15 o la settimana del 15 o in tutto il mese di giugno, ma soprattutto il 15 proprio come segnale, noi siamo disponibili con la nostra piattaforma a mandare gli streaming live di fondazioni, enti, orchestre, cori, teatri piccoli e grandi di prosa. Ecco, specifica bene, questo aiuta non perché vi dà più visibilità, perché la piattaforma streaming prevede il pagamento di un biglietto riguardo a questo spettacolo. Un biglietto, non quindi solo vi allarga da più il pubblico in situazioni meno pericolose. Quindi sì, aiuta il sostentamento di queste produzioni. Se non si può compensare con la vendita dei biglietti perché il pubblico è contingentato, almeno si può compensare con un pubblico virtuale. Chiaramente noi ci auguriamo di tornare in teatro dal vivo, però giustamente se queste sono le regole non è che si possa far molto in questo momento. Chi potrà riaprire riapre, e chi non potrà riaprire aspetterà. D'altra parte bisogna fare qualcosa, bisogna ecco, andare avanti. Io ho voluto far parlare l'ascoltatore, ma riassumeva un pensiero che viene istintivo da chi non vuole articolare il pensiero. Anche noi quando abbiamo visto queste regole, io e Fabrizio Intonti ci siamo messi a ridere, facciamole leggere, facciamoci una trasmissione. Sì, possono far sorridere, ma qual è l'alternativa? Non c'è alternativa in questo momento. Cioè una patata bollente che mi dici chi se la prende in mano, perché ammesso che tu voglia fare un gesto rivoluzionario, dici non me ne importano niente, io non metto in scena qualcosa se non con il metodo tradizionale. Ecco, chi si prende poi la responsabilità di un eventuale contagio, di un'eventuale sanzione per non aver osservato le regole? In questo caso ti sei fatta questa domanda, la compagnia teatrale, l'artista, il teatro, l'impresario, l'amministrazione, chi è che si prende questa responsabilità? Ma anche perché è successo, c'è stato un esempio in Olanda con una grande orchestra e un coro che hanno fatto un concerto a febbraio, questo prima del contagio, ci sono stati da un solo contagiato, mi pare oltre 50 contagiati e 4 morti, per cui è una responsabilità non si enorme, scherza, ecco, ma non anche è uno a livello scherzo. Morale, anche a livello, cioè proprio uno, io non mi prenderei questa responsabilità onestamente, per cui sicuramente tutti quelli che riaprono sono certa che osserveranno le regole nel modo più scrupoloso, anche perché loro stessi sono preoccupati, poi cioè, ci sono persone a rischio, ci sono persone più giovani, meno giovani, come in tutti gli altri ambienti, come nei ristoranti, nelle banche e in qualsiasi altro ambiente di lavoro. Bene, Lucrezia, è molto chiaro quello che hai detto, la trasmissione è finita, questo ci dice la sigla, e anche la tua risposta è stata la risposta migliore, chi pensa che sia tutta una scemenza, una stupidaggine e un'esagerazione. Alla prossima.